Ciccio. Ciccio, butta la pasta. A me. A Franco. Ciao. Mi ha addormentato, vero? Mi sono appena svegliato. Dormivo, mi ha fatto la notte ieri. Le cose poi stamattina ha lavorato. Mamma mia. Logicamente anche io mi sono dormito. Stava pulizia, fa poco fatto il casino, mamma mia. Piccolino, è piccolino anche tu, dai a rubà, è normale, tanti notti in bianca ci ho fatto io. Vabbè, se no si vuole accorrere, si muove a fare, non fa niente, se si sveglia. Nulla, non so che stavolta è meglio una pizza. Ui, sono tantissimo, sono stanco. Se me la domani andava la pizza, cacca. Quella di pizzeria o casandovia? No, sono fatti da loro, pizzeria. Che è migliata tu? Tu, non raccolgo. Tu mi hai passato la retta. Sono appena arrivato a casa. Ah, la pizza al taglio. Pizza al taglio, ti rimane il soldo, come ti vuoi tu? Non è un bottichino, è un altro. Come si chiama? Ma. Se non mi ricordo il nome. Mi ha dormito perché ero stanchissimo, era pezzi, proprio, cioè, mi ha dormito il buon di mattano, poi cazzo sono andato ho dormito un po', poi sono andato a rielaborare, e va a farlo tutto. Ma ora ti fai no? No, prova niente, ero in piazza Fiume ieri. Non è che ci è andato bene quella. Era all'addetto a qualcosa di. Al gruppo elettrogeno, ho capito, se si sudava, se succedeva qualcosa, dovevo intervenire. Ah, andava, tuo cazzo è già imparato. A fine mese va giù tutto. E poi ero tutta la parati per gli impianti elettrici, puro, malati prima. E stamattina Alghero torna ad andare a montare il piatto elettrico. E corro. Io voglio separare la gioco. Perché io, li collego. Addirittura con l'Alghero ci voleva lo spellato per collegarlo al contattore, capito? Andava importante il lavaggio, importante è quello, è sempre in paia. Io in questo periodo non ce l'è tantissimo, ho fatto più di giorni a casa. Se recupero qualcosa almeno si riesco a pagarmi i debiti. Ma con Tizio non sta lavorando più? Con lui ero. Andiamo. Schiappa. Ma tu ci devi attestati di cosa c'hai tu? Ma ti dici non ne hai? Sono anche in Tizio, sì, però faccio rischio. Vabbè. Se glielo dici già mi mettete d'accordo, la ricerca non sempre lì, ma come se non offrete fa a nulla, te lo fanno prendere, magari qualcosa ti fa già fare, ma so diglielo. Io non lo vedo mai anche tu. se lo dato anche a coso, a Mario di dirglielo, sì, un cazzo ha detto. Ma lascia perdere, cioè io dico io a tutti, io dico io. Siccome quando siamo assieme, già ve lo dico io, siccome che c'è un mio amico, lo dico, che è molto bravo su queste cose, magari cazzo mi chiede il numero, lo dico, se lo vuoi conoscere, gli dico, ma io penso che tu passi, non passi nulla a nessuno, ma devo essere proprio bene. Sì, da lo so, infatti non gli ho più chiesto niente, è un preso la persona dove non gli ho più detto niente. Certo, io provo a dirglielo per cosa dice. Vabbè, io mi dico, guarda, c'è una testata antincendio pure, c'è altro rischio o no. Magari non ho fatto d'accordo. Infatti, ti racconto, c'è così e ti racconto. Sì, su Maria, mamma mia, Gesù, lo devi conoscere bene, lo devi conoscere bene, mamma mia, che personaggio. Sì, vabbè, lascia perdere. Dai, io dico io a tutti. Tu dici a tutti, ma qualche persona lì c'è da fare la notte, fare piantonamento, da qualche parte, loro già ne hanno loro, se c'è qualche uno che conosce, perché lui meno male conosce anche a coso, quello che fa servizio alla torre, seppure, cioè come lui dice il nome. Che va qua? Io devo parlare con lui. Ma non pare ci parli anche con lui già, già lavoro, vabbè tu che cosa tutto c'hai, che i brevetti che c'hai, puoi farlo, cosa ne so, ce l'hai quello di, per esempio, sguardo o portierato, cosa c'hai tu di cosa di, cosa ne so, solo anticendio c'è. C'è il basso rischio, non è anticendio, è basso rischio. Anticendio, il costo anticendio, cazzo di pagare 280 euro, è a cazzo mi dirà. Ma io so che lo fanno loro. Lo fanno loro direttamente, internamente, se interessano gli uomini, capito? Non lo so, anche non se lo metti pure tu allora, visto che lo conosci già. Io lavoro con loro. E perché non te lo prendi? No, non è che mi interessi molto, a me mi interessa fare impianti elettrici, parchi, roba così. Non me ne frega niente di... cioè, non è che ci abbia mai pensato, la verità. Me l'ha detto il coso, ma non è che... Vabbè, dai, io mi assento un attimo, casomai se lo senti diglielo, se ha bisogno di qualche altra persona, e vediamo un po'. Avanti, Breckers. Buonasera a tutti, ciao Antonio, ciao anche a Emanuele, non so se ci sia altra gente, dai, sto accendendo adesso. Ciao già. Ciao già, buonasera. Vabbè, tu, chi c'è? Emanuele Raffano, poi non so se c'è qualche domanda da ascolto. Comunque la cima c'era, tornata a prendere il cielo, come si dice, prima era appena corta, adesso torna dritta, quindi andava bene. Ah, le versa apposta? Saluto, io già lo sai che non faccio, saluto Luca, e mi ha fatto tutto. Me l'ha messo a posto, la verità, è stato molto gentile, è stato. Ma Luca Maricu? No, no, no. che era flipper. Ma quindi non era l'antenna storta, era il tubo c'era storta. Nessuno dei due. L'estate si sono appennato. Inclinato. Ah, e quindi sono debole queste staffe. Che staffe hai messo? No, praticamente è successo che ci sono. È stata un po' colpa mia pure. Ho comprato della corda di ghisa di cazzo, della leader da tracking. Si è sciolta e tende un pezzo, cioè si sono fatte. Da lì non c'era più sostegno, siccome ho dei pali pesanti e buoni, che non li pigi manca cannonati, quindi quelle frustatone che gli ha dato, lì appena appena è corso, ma adesso è tornato tutto nella norma, ci sono i tiranti, c'è tutto quello che ci deve essere. Non penso che si muovia più, no. Quanti ne hai messo tiranti? Tre? Quello pure mi ha messo lui. Senta, attenzione, carissimo. Aspetta che c'è Eugenio che sta chiamando. Eugenio, avanti. Buonasera, Marco Marini, buonasera. Buonasera a tutti. Direzione qua, quasi, non so, Santa Maria, no neanche, Vulcanica. Ma è il bacino oggi, ti ho sentito io per miracolo, là. Adesso ho fatto un passaggio che ci è arrivato bene, però è il bacino. Ho l'antenna piccolina, capito? L'antenna del campo è piccolina, sarà 40 centimetri forse, cambio! Buonasemene! Oh, ciao Carlo, ben sentito, buonasera anche a te, avanti! Buonasera, che già avevo lo squash io, quindi inserito, quindi non lo sentivo. Ma come lo fai? Come fa a non sentirmi se mi arrivi la bomba qua? Cambio! Ma se va via lo squash inserito non ti possiamo sentire. Emanuele, e poi non so chi ci sia. Carlo, sono Eugenio, attento, Carlo! Eia, Eugenio, già ti sento bene qua a casa, mi sta arrivando Santiago 9 adesso, Radio 5. Addirittura, andalo, un altro minuto piccolo, sul camper, sul tetto del camper. Ma Carlo, c'è? Eia, Eugenio, se c'è un antennino piccolo già va bene. Qua già mi sta arrivando bene, non so agli altri, ma penso che ti sentano bene anche Gianni e Antonio. Non ho problemi, lo sento abbastanza bene. Ciao Genio! Ciao, buongiorno! Buonasera. In che zona sei? Adesso sono a Città Mercato, sono su a 131, la testa a Città Mercato. Kappa, sì, dove c'è il Conad, qua giù, vabbè, adesso non c'è più Città Mercato, c'è il Conad lì. Per l'antennino che ho, anche sulla cappotta del campo di Petrusina funziona anche troppo bene. Dal grido. E lì arriva la bomba, credo. Sì, adesso sono al semaforo prima della rotatoria di Bricomel, a Sant'Orsola. Sei vicino a casa mia. Ma perché tu a Sant'Orsola sì? No, a Lattidozzi. Gianni, mi ascolti ancora? Io sì che ti ascolto. Santiago 8, Radio 5. Carlo, mi ascolti? Cappa che ti ascolto, Eugenio, già ti sento. Antonio mi sta arrivando 9:30. Cappa, hai visto come l'ho collocata bene? Ehi Anto, non so se hai qualcosa di attaccato, però mi sta arrivando benissimo, sia di segnale che di radio. Gianni, vabbè, sempre il solito, Gianni lo stesso, mi arriva molto bene. E anche tu stai facendo progressi, per avere quell'antenna stai andando benissimo. E piano piano è sempre progredendo, dai, su progresso. Quindi potete approfittare in questi giorni che c'era bel tempo a piazzarti l'antenna. Oggi la potevo piazzare, era la nostra giornata. Ma lui ancora non ci ha parlato con gli altri, quindi non vuole fare le cose alla gu. Ti sei contento della bomba, ma della bomba là, per il momento. Già andava, chi si accontenta gode. Infatti per adesso, dai, poi a marzo, diciamo ai primi di marzo c'è un po' di ferie, c'è una settimana, se continuo a fare bel tempo, mi sa tanto che mi metto l'altra di antenna, la J-Pol, perché ho preso le misure e praticamente ci sta sulla ringhiera, capito? Dove ho messo il tubo, la metto sul tubo, la sollevo anche un pochettino e così, capito, riesco a salire molto sopra il tetto. Capito, infatti, se ti serve il tubo, guarda che io ne ho un tubo nuovo che non ho piazzato, poi alla fine ho lasciato quello che c'era. Se ti serve, Carlo, quello più grosso. Gianni, grazie già, però io ce l'ho, capito, perché dove era piazzata questa antenna, capito, e mi avevo recuperato tutto, quindi ho praticamente diversi tubi. Aspetta, oggi addirittura ho un telescopico al quale poi avevo attaccato un'altra sezione molto più grossa e quindi ho addirittura la possibilità di mettere un palo lunghissimo, ma non Claudio mi ha detto che non è necessario, che quella lavora bene anche a 2 metri da terra, capito? Quindi io, essendo quasi all'ultimo piano di quella parte di terrazzo, dice tu sali decisamente oltre il tetto, perché quella è lunga 7,20 metri, se non me ne frega niente, la piazza, tanto c'è una piccola, ci può fare la grande, anzi quella che ho attualmente esce fuori perché ho messo il braccio che la fa uscire, la lontana dal poggiolo, invece l'altra sale dritta, capito, e quindi non è necessario neanche farla uscire, quindi rimane nella traiettoria e si dovrebbe notare anche poco, capito, ma a me interessa che trasmetta e riceva meglio e di conseguenza poi migliorerò, se riesco può darsi anche alla fine di questo mese me la piazzo, come trovo qualche giornata bella che sono libero me la piazzo. Carlo, è interessante che non stia attaccata al muro perché può darti stazionaria, capito? Allontanati il microfono dalla bocca. Eia, sì, ma quella anche se la metti vicino al muro non succede niente, non è a stazionaria, Gianni. Ciao Claudio. Sì, tutto è passato, allontanati il microfono dalla bocca. Va bene, buonasera a tutti. Guarda, ti ho già detto, se ti guardo le caratteristiche, è un'antenna che lavora a 50 cm da terra, quindi l'altezza dal piano di terra, dal suolo, ce l'hai già, quindi puoi fare quello che ti piace con l'antenna. Ehi, Claudio, ti ho sentito, forse vi siete sovramodulati con Gianni. Ciao Claudio. Perché Gianni ci ha vinto veloce come sempre, ciao a tutti, ho detto, sono entrato solo per dire a Carlo di allontanare il microfono alla bocca, era troppo un battato. E c'è gente, ci sentiamo dopo, vai Carlo. Ciao grazie Claudio, ci sentiamo, vai Gianni. Ehi, ciao Claudio, buon turista. Eugenio, ma deve essere arrivato. Attenzione, Eugenio. Non risponde, vabbè, ripetito. Siccome deve metterci con l'antenna, lui è a posto, se ci dà la gabbiuria, lui non ha più problemi, lui è a posto. È un'antenna più performante. Oh, questa che c'ha adesso, questa qui va bene, va benissimo. Però, fatta della cipolla, mi sa detto un'altra cosa. Una subito l'antenna. Che una settimana, io grido. Infatti, dai, piano piano, già mi sentirete, tanto quando la piazzo poi già chiederò qualche riscontro e qualche controllo, capito, e già avremo modo di provarla, capito, sia in trasmissione che in ricezione, ma non credo che dia molti problemi quell'antenna, perché già l'avete sentito Claudio, addirittura la puoi mettere anche a terra e non ti dà stazionaria né niente, capito, quella come la piatti non la devi neanche regolare, perché la rimetto così come era, è tarata per gli 11 metri e fa 10-11 metri addirittura. Bene, bene. Comunque ieri stavo chattando con un amico di Porto Torre, se rientrerà, si è ordinato la Grazioli, però ha scoperto una cosa, era sempre stazionare con questa antenna, gli hanno tagliato il cavo col coltello, gli hanno fatto i tagli nel cavo e gli entrava acqua sicuramente. Adesso ha detto che ha speso già 200 euro per l'antenna perché ci ha comprato la Grazioli e adesso deve aspettare per comprarsi il cavo perché ci vorranno altri 100 euro di cavo. E cavolo, chi gliel'ha tagliato il cavo? E che ne so, lui dice che ha cambiato l'antenna perché pensava che fosse l'antenna, invece il problema non era l'antenna ma era il cavo, me l'ha mandato la fotografia, te la mando pure. Ho capito. Purtroppo il cavo, cosa ci aveva, quello sottile o quello grosso già? Ho quello più grosso, mi sa. Ho capito, quello costa anche un bel po' di quattrini. Ah, comprare un barilotto, lo isolava e funzionava tutto a posto, perché non gli fa niente, mi era... Comprava un barilotto, 2 PL, e lo metteva tutto a posto. Lo vulcanizzava e lo isolava, o li metteva il termoristringente e, no, e andava a bere un attesi, non cambia niente, non perdi niente lì, perché ci vuole come cavi due pelle uniti, stretto bene e non succede nulla. Vabbè Gianni, un attimo Anto. Sicuramente sta facendo qualcosa Anto Gianni. Sì, ma io lo stesso, il cavo, utilizzo quello fino, tanto sono anche vicino, diciamo, dall'antenna a dove ho la radio, ci sono 5 metri, quindi non ne vale neanche la pena mettere il cavo grosso, capito? Sono vicino, per cui non... ce li ho io una... penso, adesso non mi ricordo se il mio cavo è 25 o 20 metri. Non hai comprato l'H155 tu? No, quello che avevo prima nella J-Pol, quando ero nell'altra casa, avevo il cavo grosso lì, capito? Avevo quello 213, quello però buono, capito? Sì. Quello lì già, cioè se c'è la possibilità di metterlo va bene, però è difficile da piegare, da domare, capito? Perché essendo grosso non è che si piega tanto bene, non si presta molto a essere piegato, e di conseguenza invece quello fino, capito? Quello lo fai passare dappertutto, lo pieghi, riesci a, insomma, fare di tutto e di più. Sì. Ma no, io ho comprato, ho fatto comprare questo qua, quando avevo messo l'antenna, me l'ha fatto comprare, ma buono proprio. Buona. L'H155. Ti dico, una bella resa, veramente una bella resa. Già lo credo. Certo. Vedrò i due, mio figlio. Tra un po' lo svegliamo. Stanotte non ho voglia di cucinare, no, chiamo la pizza, chiamo. E ogni tanto dai, anche la pizza già ci sta, già va bene. Io ieri mi avevo fatto spezzatino con patate, ne ero avanzato ieri sera e me lo sono mangiato a pranzo. Stanotte mi preparo qualche altra cosa, ma avevo fatto la spesa, quindi in frigo c'è un po' di tutto. Qualche cosa mi cucinerò, magari per cena, qualcosa di leggero, c'ho anche insalata, c'ho pomodori, insomma, ho anche carne e tante altre cose. Certo, cosa c'è Gabriele? La bua? fatto al piede, tesoro? Vieni qua, ma che stai dicendo, le bugie? Scusami, ma si è svegliato Gabriele, mia mamma, la pizza sta cercando. Adesso la chiamiamo, Gabriele. Gabriele, adesso la chiamiamo. Ciao, l'hai visto? Caspita, proprio quello è tagliato col coltello, proprio c'è, poi gliel'hanno piegato, vedi anche il bianco dentro, poi si è formato l'ossido, vedo, tipo verde rame, capito? È ovvio che gli dà stazionarie. E lui pensava che fosse l'antenna, si è cambiato l'antenna, si è comprato la Graziuri. Tanto 200 euro l'ha pagata, ma io l'ho vista la Graziuri che costava molto meno tanti posti. Lo so, io capito, infatti prima di comprare controlla quello che hai, se è tutto a posto, e infatti come in questo caso non era l'antenna ma era il cavo. E adesso ho detto che c'è una matassa di RG58, ma deve cercarla perché non sa se ce l'ha ancora, se l'ha guardata, non se ne ricorda più. Questo mese dice che non ce la faccio, ho preso già l'antenna, 200 euro, lo so, di dove? Di Sassari o di Furi già? No, di Porto Torres. Ah, cappa, dai, così abbiamo altri interlocutori di Porto Torres. Ma lui già a sua volta entrava ogni tanto, però siccome era sempre con le stazionarie alte ci stava poco. Ah, ho capito, sì. Come si chiama? Sicuramente magari l'ho sentito. Si chiama Claudio. Ah, certo che me lo ricordo, già che avevo parlato. La voglia, più di una volta. Chissà che avrà i fasciati, qualcuno che gli dava fastidio, ma poi adesso non danno più fastidio ai baracchini. Prima magari, quando trasmettevano il VHF e le televisioni, ma adesso non ne danno più fastidio. Cosa avrà i fasciati da fare? No, infatti, capito, il digitale terrestre poi sono altre frequenze, non sono più le solite, capito, e poi vanno in digitale e quindi non, diciamo, la 27 non crea più interferenze. Meglio che non l'abbia visto facendo, ecco, meglio, se no mi sarei compromesso. Infatti meglio di no. Vieni Gabriele. Ha aperto la porta, mamma mia, un disco fasciato. E a Gabriele, mi svegliato si è. Si cade la pizza. Gabriele, la porta, c'è la porta o questa poco? Bisogna aspettare, bisogna avere un pochettino di pazienza. Salutami. C'è la pizza, se papà l'ha ordinata, già la portano subito. Ciao Gabriele! Sì, ti ha salutato. Vabbè Gabriele, non dici niente. Che ti tendi la pizza, mio bambino, mamma mia. Arrabbiati la pizza? Sì, te la mangia già. Oh, io ho scoperto un posto là, a Sant'Orsola, mi abbassa, ma buone le fa. Sì, l'ho scoperto, te l'ha detto Luca. Anche io l'ho presa lì, l'ho presa con i frutti di mare, era una bontà perché mette i frutti di mare freschi, non di chi si... L'ho pagata 11 euro, però l'ho mangiata veramente con gusto, mi ha messo gamberoni in mezzo, ma non gamberetti, no, gamberoni di quelli grandi. Ha fatto tipo una stella con i gamberoni, poi ci ha messo le vongole, i polpi, un po' di tutto. No, ho scoperto un posto dove la mattina, vabbè la pizzeria lo so perché l'ho presa anch'io un po' di volte. Ho scoperto un posto, dove fanno le paste, ma buone e grandi, a Sant'Orsola. Ma io guarda, vado da coso, mi trovo molto bene da Protollella. E le fa belle grandi, le paste, fa dei cannoncini che sono cannoncioni, non cannoncini. Paste buone e belle grandi. Vi dico cosa fate nei chili. Fanno come cassate, ma a me da una notte, ma buone mi di sapore. E quel sapore è la voce da sentirle, proprio con te di la panna buona. Caspita, o la crema, buona rita, fa queste frittelle la paura fa. Tu puoi andare lì anche, vorrei ti ringrimaffi di lì. Ma buone me. Ma non so dov'è tu, non so dove sia questa pasticceria. Che giorno ti porto io a mangiare pasta? No, io vi giuro che non ho mangiato nulla quest'anno, ho una voglia di frittelle, che non ho mangiato nulla, perché prendermele da solo poi ne mangio troppo e quindi ho evitato. Le frittelle, guarda, hai voi calde calde che te le fa calde calde? Le frittelle? Ma sai dove devi andare? In via Napoli. Cioè, ditti di dati, te li fa al momento, te li fa, buona rete, Gio. E te li fa sia con l'anice, con la barbente li fanno, tre cose, ma quindi è proprio so buoni. C'è una mia amica quella lì. Era la mia amica, capito? La zia, c'è la zia, lei e la sorella che fanno queste... Sì, lo so, è da tanto che sono famosi, per le frittelle sono famosi, fanno la fila ogni volta. No, in via Napoli è più su di Roberto, lo sai dove? Non è proprio via Napoli, è una traversa. Ti stai sbagliando, proprio via Napoli, via Napoli. Lo sapevo che non è una pasticceria che c'è lì, che è artigianale, è via Napoli, sicuro 100%. Praticamente lo sai Roberto quello che fa i panini, è appena appena più su, dove c'è il bar, cioè, tra Roberto e il bar Sandrino lì. Ma fatene questi frigori, ma buoni, appena fatti, ma buoni mi, devi solo assaggiarle. Gli fa pagare 5 euro a giro, li fa pagare, ma buoni mi. Ma sta dicendo Roberto quello che fa i panini? Sì, appena più su. Ah, ho capito. Niente, ma la domenica non lavora. Sì, sì. Scappa, saperlo prima, ce ne siamo mangiati insieme, avanti cazzo. Io ieri mi ha chiamato mia cugina, capito, e mi ha detto vieni che ho fatto le frittelle, quelle treccine col miele, capito, con la buccia d'arancio, eccetera, e ne ho ancora un po', capito, quindi poi di quelle lunghe me le avevo comprate alla Conad e sono quelle di Cesaracciu e sono buone, le ho trovate anche calde, le stavano appena portando una settimana fa e quindi avevo preso un giro di quelle e diciamo basta perché sennò poi si ingrassa troppo con i dolci. Ma io non li mangio mai Carlo, mai, a togliervi la soddisfazione una volta ogni tanto. Beh sì, così sì, capito, ti togli proprio lo sfizio a dire beh vado a farmi una mangiata di frittelle, allora sì, ma una volta ogni tanto sì, capito, però noi in Italia con tutte le feste che abbiamo, dal Natale, poi passi a che ne so, alla Pasqua, prima del Natale c'erano i morti, anche lì si fanno i papazzini, le siliche, capito, poi arriva Pasqua e si fanno casadina già sempre, insomma si passa da una festa all'altra, poi c'è la colomba, prima c'erano i panettoni e quindi a Carnevale le frittelle, ne abbiamo per tutti i gusti. Noi li chiamiamo casadini. In Sartarese sì, casadini, già lo so, nonna era sartarese, quindi da piccolino già la sentivo parlando e quindi io conosco sia il sartarese, magari non lo parlo benissimo, ma già lo capisco tutto, qualche frase già la so anche io, eccetera, però io conosco bene il dialetto logudorese, quello che si parla a Bonorva, capito, perché lì sono nato e ci ho vissuto sino a 18-19 anni, le scuole le ho fatte tutte là. Ma anche io il sardo lo capisco, dai. Io non lo so parlare benissimo, ma lo capisco, sì. Qualcuno che mi parla il sardo le risponde il sardo. Ma non è che la pronuncia sia uguale a quella dei paesi, però mi arrangio a parlarlo, dai. Sì, sì, e noi già siamo sardi e ci dobbiamo arrangiare per forza, già. Ti hai mai visto quello che hanno sparato in 35 anni a... dove non è Unifedi, è... ma... Urani. Sì, a Urani, oggi c'era il funerale, poverino, capito? Questo pare che era, diciamo, una persona tranquilla, gli avevano bruciato la macchina o è entrato in qualche giro balordo, capito? Lo stavano ricattando, ha chiesto sugli affitti e poi non li poteva restituire, capito? Cose del genere, ma come si fa a ammazzare una persona? Io non lo so. Non hai sentito bene il telegiornale, no? Ha visto cose che non le fa vedere. Purtroppo, nel suo cammino. Ed è un problema quando va a vedere di troppo, capito? Soprattutto con certi personaggi. Se seguivi il telegiornale lo diceva chiaramente, ha visto cose che non dobbiamo vedere. Esatto, esatto, vi siete un po' sovramodulati forse con Gianni. Scusa Gianni, scusami. No, figurati, non c'è problema, succede. Purtroppo questo ragazzo ha visto cose che non dobbiamo vedere e ha faticato un po'. E quando tu parli, non andava. In certe parti della Sardegna c'è sempre la dicitura vedere ma non sentire, fatti di capolidoia. Eccomi qua, saluto. Ciao Claudio, rientra. Una tua voce, mio figlio, sarà qua a pranzo. Colombo, e quindi stavo attendendo allora, lasciamo qua via, dopo poi. Da una sera a parte a noi, poi mi faccio in giro 5 giorni. Allora stavo prendendo qualche cosetta che aveva lasciato qua, lo venetto, roba così, capito, un po' piccolino. Buonasera a tutti, mi sentite, sì? Sì, Giulia. Stavo parlando di Carlo, di Pordottore, se ne hanno a pescato, Claudio. Allora sa già chi è lui. Allora sa già chi è. Praticamente lui ci ha ordinato adesso la Grazioli come antenna, pensando che magari fosse l'antenna, invece poi è salito e ha trovato il cavo squarciato. Non è salito lì, vabbè, già lo so come ha fatto lì. Lì c'è poco da salire, lì ho salito a casa sua, però dall'altra parte. Questo mi dispiace tantissimo, adesso lo sento per telefono. Io volevo capire meglio perché non riesco a capire, vabbè, ciao a tutti, comunque buonasera, avanti Carlo. Ehi, ciao Claudio, sì, mi stava dicendo questa cosa Gianni, si vede il taglio quasi netto, capito, e poi gliel'hanno piegato, quindi il cavo è tutto aperto, già lo credo, si è formato anche l'ossido, quindi lì come pioveva faceva contatto, era le stazionarie alle stelle, e lui magari non ha controllato prima il cavo, ha pensato subito all'antenna e quindi si è comprato l'antenna nuova adesso. C'è qualcuno sotto, vabbè, negli anni che furono a me, negli anni 80 già Sassari, negli anni 70, 75, 76, allora si ritrovava molto le disuto, la maravetta sotto a tutta burra, e il mio vicino di qua, il vicino di casa di mamma, non mi aveva attaccato il cavo, sicuramente si era consultato con qualcuno e mi aveva messo uno spillo in mezzo, capito, uno spillo. Io stavo perdendo la testa perché lo spillo non si voleva, era tagliato, quindi era meglio tra il caldo e il freddo, mi chiamava dentro bene all'istante. conosci lo Spillo, una razza di ingegno, capito? Intelligentissimo, mamma mia. E vabbè, dai, cose che possono capitare, e purtroppo trovi qualche vicino un po', insomma, dispettoso, e vatti alla pesca, è proprio come trovare il lago nel pagliaio, qui in questo caso era uno Spillo. Sì, ma non tanto io, perché io però, vabbè, in quegli anni lì, se mi toccavo di orecchio, mi faceva subito un giaffo, capito, era molto, molto, non è bello, anche perché sono nato in un quartiere che se non ti facevo rispettare ti battigliava, quindi ho lasciato perdere, se non avessi accatto la testa, mamma non voleva, però quando poi ha sollevato il piano, perché erano due muri confinanti, ok, mia madre non aveva dato l'autorizzazione a sollevare il piano, e infatti è rimasta sempre così la casa, ha fatto la mansarda al lato contrario, ma Gianni già lo conosce, la postazione era Migia, c'è Vicente Fiori, altrimenti. Sì, guarda che te l'ho mandato, vai, adesso me lo guardo, te lo chiamo, non voglio disturbare, ma io so già come la situazione lì, capito, perché conosco perfettamente la volabita, anche perché attaccato a lui, confinato a lui, c'erano i genitori, sono morti tutti e due, c'erano i genitori di mio cognato, ma di prima sorella, capito, quindi conosco perfettamente vita e miracoli lì. L'hanno preso ai figli, quindi non vorrei che sia successo così, no, con i nipoti di mio cognato. Vabbè, ok. E così è chiaro. Ma lui è un asino, lui sicuramente si è consultato con qualcuno, e ha detto se il capo se ne accorge, non è venuto un mese e mezzo. Capito? Lui è stata stazione a provocare, quindi conosceva un po' di gente del genere. E vabbè, ci sono sempre questi pezzi di merda. Niente da fare. Va bene, mi allontano un attimo a vedere il coso di Gianni. Antonio, riprendi. Poi saluto tutti, se non ho salutato nessuno, saluto tutti. Va bene, Claudio. Ti hai salutato, dai. Avanti, cazzo. Antonio, la pizza ti è arrivata. Antonio sta masticando. Molto probabilmente aveva il bambino, poverino, che stava aspettando la pizza come la manna dal cielo, dai, e staranno mangiando. Prima c'era Emanuele, non so se è ancora in ascolto. Sì, Emanuele fa cucù e poi non entra più. Ecco. Avanti. Buonasera a tutti, Luca, stazione Fluppi, buonasera. Ciao Luca, buonasera a te, mi hai sentito? Avanti, siamo io, Carlo, Claudio, c'era anche Antonio, ma gli è arrivata la pizza, sicuramente sta mangiando. Schizzurano dalle 7:30 con la pizza, io sto ancora digerendo il pranzo. Dai, per quello che rimane la domenica, e noi mia a fare quattro chiacchiere come al solito. Sì, ma devi dare da mangiare al bambino, capito Luca, devi dare da mangiare al bambino che picchia. Mi sto ascoltando, mi sto, perché mi sto... bisogna seguirlo, vuole l'acqua adesso, ascolta che ti do l'acqua papà, buonasera anche Luca Fluppi, buonasera a tutti, dai. Continuate che io devo dare l'acqua, non sistemare. E adesso lo dice bene Antoine. Cosa? Lu, ma cosa ho creato? Ma dimmi già. Detto che adesso acqua, lo dice bene. Già lo dice, gli acqua dice pure. Ok, dai che lo... Roger? Sì. Secondo me non è un taglio quello. Io era appena spaccato il cavo. Ok, perché è successo anche a me. Era appena spaccato. C'era proprio qualche... Un caldo di freddo mi ha fatto un bel. Si è allargato, si è allargata la guaina. È entrata acqua. Non è un taglio... Per me sì, ha tagliato anche la parte interna, non hai visto che ha tagliato anche quella gomma dura che c'è internamente, non penso che sia una piega Claudio, quello è un taglio di cucito, hanno tagliato anche il cavo, guarda che quello già lo sai, no? Non c'è bisogno di dirtelo, dove c'è proprio diciamo il polo positivo è duro. se no vuoi, va bene, boh, datemi 5 minuti che lo faccio ancora a Carlo, cazzo, mia moglie, dove mi puoi raccontare le voci, riprendi Carlo. Eh sì, può darsi pure che l'abbiano tagliato così in maniera orizzontale, poi gli abbiano dato due belli frattoni, capito? Hanno spaccato anche l'interno, il bianco, capito? Poi lasciato così, ovviamente l'acqua poi ha fatto il suo danno e vabbè, lì o si poteva ricongiungere bene, capito? Se è solo in un punto, ma se gli ha fatto diversi tagli anche in altri punti, allora cambia tutto il capo e buonanotte. No, è solo lì che così la deve mettere un ballo per il momento, perché ho già speso 200 euro per l'antenna, quindi ho detto metti un ballo e praticamente lì lo unisci e poi più in là magari, anche se c'è un po' di perdita così, ma più in là le lo capo. Esatto, e beh, tanto comunque prima o poi l'antenna, se continua a tenere quella che aveva, magari l'altra la conserva, tanto prima o poi si rovina qualche antenna e quindi ne è una buona di ricambio. Sì, già l'ho visto bene, sì, non l'ho pagato apposta, perché quello centrale, quella guaina è dura. Infatti, non la spacchi così, no? Quella è dura davvero, è dura anche a tagliare con le forbici, quando devi tagliare per fargli la saldatura del piede, è dolce aggravato. Io uso per uscire da quello bianco, faccio un giro piano, taglio con la campesina, o la forbice non ce la fa, è un bel casino, vabbè, devo entrare in ballo, guarda, per carità di Dio. Ma mi stava dicendo che ha speso già 200 euro per comprare la Grazioli e io gli ho detto mettici, uniscilo, fammi mettere un ballo, lo unisci e praticamente puoi utilizzarlo sin quando poi puoi comprare l'altro, perché c'è l'altro, ci vogliono almeno 100 euro a prenderlo. Ma non c'è bisogno del cavolo, se il cavo è buono li lo tagli e metti due piole buone, non di simpatica, e metti il barilotto, non è altro che il barilotto, lo vulcanizzi bene, vulcanizzato bene, tutto, e poi una posata con quello buono grosso sopra, e non fa niente, già avrò un buon messaggio. Cappagatto. E vabbè, per piazzarla poi volevo un tecnico, gli ho detto, ah magari qualcuno ti può dare una mano, io non ce la faccio, se no sarei venuto volentieri io, ma sono tutta dolore, tutto bruciolare, perdo l'equilibrio a volte, quindi non mi fido più a salire sui tetti. No, vabbè, lui è terrazzo, non ce n'è tetto, terrazzo da sera va bene, chiamala come il tuo. Allora anch'io sono a contigione, sono già da 3 giorni che ho iniziato a fare contigione di nuovo, non riesco a fare una mazza, mi oggi ho fatto piano, mi sono finito la quadratura nella metà radio perché mi ero tracciato tutto, il vento, quindi l'ho ricomprata, rimontata, tutto mi ero tassolata diversamente, poi ho sistemato qualche altra cosettina fuori, ma vediamo se mi sento bene, che insomma bisogna un consiglio alla mano, fuori già, non è difficile da piazzare, ok, allora ti attendo la pizza della taglia. Sì, io riprendo io, buonasera. Ehi, ciao Gio, buonasera. Ciao Gio, ti abbiamo chiamato, che fine fai? C'era un po' di traffico, dovevo guidare, ero al campo. No, quando tu mi hai detto un attimo, ero già oltre San Giovanni, quindi capite. Poi ti abbiamo chiamato, ho detto, ma deve essere che è arrivato il giro già. C'era un po' di traffico. E ho pensato a guidare, dai. Comunque, qua fai va bene, no? Sì. Arrivi, diciamo, bene o male, arrivi sempre, dai. Ti ho sempre sentito. Ho un antennino a filo, un antennino quanto è? 40 centimetri, capito? Se metto un'antenna alta magari è meglio. Te lo fa fare a mettere l'alta che col camper magari tocchi gli alberi, sentono dove vai, è un casino. Ti conviene lasciare quella, se vuoi così. No, vabbè, lascio quella così, intanto mi interessa parlare con gli amici, con gli altri amici che hanno il baracchino col camper, quindi già funziona bene. Ce ne sono molti che hanno il baracchino del campo? Sì, oggi ne ho piazzato un altro anche, oggi addirittura ho piazzato quell'antenna che non devi buscare, che l'attacchi al vetro e dietro c'ha dietro la centralina e si è attaccata a biadesivo, no? Fuori e dentro. Avete capito? Sì, sì, la conosco, c'è attaccata al parabrezza. E vedi come va bene quell'antenna. Va veramente bene, abbiamo provato in distanza, veramente bene. No, è una cosa nuova per me, non l'avevo mai vista, l'ho vista su internet, infatti mi sono soffermato a guardare le caratteristiche. Sì, sì, anch'io prima ho controllato su internet e va veramente bene, anche perché abbiamo piazzata su un motorhome come il mio che l'antenna supera la cellula, diciamo, quindi è libera e funziona veramente bene. Va meglio così, dai. Almeno non devi bucare, non devi fare casini. Vabbè, già ci sono quelle staffe che si mettono nel cofano, non so se tu le conosci. Sono a gancio, si mettono all'interno del cofano, il cofano chiude tranquillamente e tu puoi attaccare l'antenna, ma ogni volta che devi aprire il cofano devi cavare l'antenna. E vabbè, ma il mio cofano è vetro resina. Capito. Claudio, ci sei? Eugenio, ma sei arrivato a Porto Torres? Aspetta un attimino che facciamo riprendere Luca, se no sta ad ascoltare a noi. Riprendi Luca, se senti Eugenio. Certo che lo sento Eugenio, ben sentito. Lo sento con una buona radio, esce bene, forse meglio degli altri giorni. Io ero da un po' che non stavo entrando. E niente, vi ascolto senza problemi, non ho necessità di dire la mia, quando la devo dire già mi intrometto. E niente, riprendete con piacere. Ehi, ciao Lu, buonasera. No, non ho toccato niente, io non tocco mai niente, così era, così è, così sarà. Non ho toccato niente, va bene, comunque. Sabato mattina ho visto il tipo di ottava che stava aggiustando l'antenna. Ah, non Gigi. Giuseppe, come si chiama? Giuseppe, stava aggiustando l'antenna sul tetto. Io sono passato lì col camper. A chi viene la fa da lui? No, è quello che stava andando male l'antenna, diciamo, l'energia ci portava. Capito. Adesso dovrebbe entrare anche uno di Porto Torres, dai, Carlo, già lo conosci, Claudio, cioè, non Carlo. Il Porto Torres Claudio, e chi è? Guarda che abita Alfa. Ah, Claudio, già lo conosco, sì, lo conosco Claudio. Ehi, ehi, c'è l'antenna anche lui, ma lui arriva bene. Mi hanno tracciato il cavo, da poco, adesso si è comprato la Grazioli, la deve piazzare. Ah, e riprende solo 27. Cavagano. Andare. Poi chi c'era? Claudio, cosa c'hai che ti sento? È andato ad attaccare la caldaia, che se no la signora lo picchia con Mattarella. Ah, ho capito. Oh, io sto rientrando, ho capito. Sono a pezzi. Ho fatto un sacco di chilometri. Lui. Non vieni a Cagliari? No. Ero più vicino di Cagliari, però la strada era... Sono andato a Orruri. Lurri, Orruri, Scalaplano e Perdas, già la giovata due volte, quando ero militare a Perdas, svincolavo appena dopo San Luri, facevo Villanova Franca, Mandas, Lurri, Orruri e Scalaplano e Perdas, a memoria. Bravissimo, sono andato per mangiare a un agriturismo, i vecchi, gli antichi ovili, ma bellissimo un agriturismo, merita il viaggio. Eccoli qua, sono rientrato. Avanti. Da quale parte si mangia? A Barbera si mangia. Pure io ci sono stato. E si mangia bene. Sì, si è mangiato anche bene, si è bevuto la grande. No, sì, sono stato veramente bene. Però c'era una cosa, i sugni freddo, ui mamma. E lì è penetrato il freddo, ti penetra le ossa. No, beh, vabbè, dentro il camper non c'era freddo perché avevo la stufa accesa, non c'era problema, ma fuori, quando siamo usciti alla del turismo, per me c'erano un grado massimo. Posso? Fai a c***o. Io una volta sono stato lì al decimo pozzo. Ma roba gazzereccia che non ti hanno cucinato, perché c'è una volta a fare una serata dei The Colors, ma roba buona e genuina, sai come facevo il maglialetto, l'antica, in terra col fuoco, come fanno nelle zone, ma tutto buono, ci hanno portato tutto quello che era a mangiare, tutto buono era. Proprio fatto, non c'è Bing, tutto è fatto veramente casereccio, roba casereccia.